I genitori musulmani non si preoccupano soltanto dei bisogni materiali dei loro figli, ma sono anche solleciti nel mettere a loro disposizione i mezzi necessari ad assicurare loro una crescita spirituale e morale nei valori dell'Islam. I veri genitori musulmani sono quelli che si rendono conto di quanto sia grande la loro responsabilità educativa e, sapendo che dal loro comportamento dipenderà in gran parte il loro destino e il destino dei loro figli nella vita terrena e in quella futura, si sforzeranno di attivare nei figli il sentimento religioso, dirigendo i loro cuori a stabilire una loro propria relazione di amore con Allah, e quanto più forte sarà il legame affettivo tra genitori e figli, che nasce dalla comunicazione, dal colloquio, dalla fiducia, tanto maggiore sarà la forza del legame di amore con Allah che i figli saranno in grado di stabilire, grazie al quale Allah sarà generoso di grazie su genitori e figli in questa vita e nell'altra. L'adolescenza è il periodo della vita in cui la personalità si sviluppa in preparazione all'entrata nel mondo degli adulti fuori dell'ambito familiare. In questa fase di transizione l'adolescente deve avere il sostegno e la guida dei genitori, poiché se egli si sente solo e insicuro facilmente andrà incontro a disordini della personalità. Il fanciullo dà forma alla sua personalità prendendo a modello i genitori. Attraverso gli insegnamenti che da essi riceve in un interrotto processo formativo che continua fino alla completa acquisizione dei ruoli della maturità. Allo scopo del raggiungimento del loro successo educativo, i genitori devono dare al loro ménage familiare un assetto stabile e devono creare in esso un'atmosfera di serenità, poiché quando all'interno della famiglia i rapporti non sono sereni e stabili, il processo di formazione della personalità è difficile e dà risultati deludenti. Il clima familiare e la sua notevole influenza sul processo educativo hanno non solo una caratura privata, ma anche una forte rilevanza pubblica, in quanto le esperienze derivanti dagli studi sociologici mette in evidenza il fatto che dovunque la struttura della famiglia è minacciata, una delle conseguenze deleterie della sua disgregazione è che i fondamenti sociali e i comportamenti della società intera diventano instabili. La famiglia, che è il punto di partenza nell'educazione, è il fattore più importante nello sviluppo della personalità dei figli. Pertanto, ogni anormalità nella struttura della famiglia può avere un effetto deleterio sul processo educativo del piccolo. È un dato acquisito che, quanto più è tesa l'atmosfera familiare, tanto più è in grave pericolo la salute mentale del fanciullo. Quando la famiglia dimentica la filosofia della sua esistenza e dimentica quale sia lo scopo finale della sua istituzione da parte di Allah, l'immagine dell'unità familiare è offuscata e squallide controversie la devastano. In questo caso i genitori, che sono responsabili del governo della famiglia e dei suoi affari, possono perdere il loro positivo ruolo di modelli per i figli. In tali famiglie i figli non si sentono a loro agio e, osservando le critiche condizioni della famiglia, sono costantemente preoccupati per il loro futuro. È ovvio che la situazione familiare può incoraggiare o scoraggiare i figli. Se i membri della famiglia sono uniti e hanno le stesse idee, i figli crescono con una forte fiducia in loro stessi. Al contrario, i figli che crescono in una famiglia percorsa da forti tensioni nervose e da dissensi identitari hanno grande difficoltà a formarsi la loro identità.